Effetto Mondo. Growing up in Italy, I obviously appreciate the beauty. I knew it was just a matter of time before this market catches on to it. And they certainly have, and it's still growing. Allora, la voce l'abbiamo riconosciuta, Giulia Crivelli, buongiorno. Sì, buongiorno, era Kobe Bryant, cosa diceva? Sì, era è una delle ultimissime interviste che ha dato prima dell'incidente di domenica in cui è morto, e diceva, hanno parlato di calcio perché lui era fortemente impegnato nella Lega di calcio per promuoverla negli Stati Uniti, e diceva: io ho imparato ad amare il calcio perché ho vissuto in Italia, ma quello che sto cercando di fare per gli americani è di spiegare la bellezza di questo sport, e la cosa che mi entusiasma è che continua a crescere, continua a diffondersi. Poi in realtà sappiamo, nell'intervista diceva anche, ed è anche molto bello perché rispetto per esempio all'Italia, qui è molto giocato anche dalle ragazze, in effetti anche nelle scuole è molto giocato il calcio il nostro, calcio femminile, sì, tra le donne sicuramente negli Stati Uniti ha un grande seguito. Poi naturalmente, insomma, invece sui giornali ci sono tutte le iniziative per ricordarlo. Tra l'altro in giugno, quando finirà il campionato di NBA, sicuramente ci sarà qualcosa, forse anche prima. Intanto però qui è invidiabile la velocità di questa inchiesta, perché se pensiamo a quanto ci vuole da noi per stabilire le cause di un incidente, qui appunto già ci sono le prime ipotesi sul fatto che l'elicottero non aveva questo sistema che in caso di nebbia vede gli ostacoli, una specie di radar li vede, e quindi il pilota avrebbe potuto capire che doveva cambiare rotta. Insomma, era un elicottero che, nonostante le precauzioni che Kobe Bryant prendeva, che di cui tutti i giornali parlano, cioè di non volare mai sullo stesso elicottero con la moglie, perché nell'eventualità peggiore almeno uno dei genitori delle quattro ragazze sarebbe rimasto in vita, e però queste precauzioni sull'efficienza dell'elicottero evidentemente non le aveva prese tutte. Allora Giulia, ancora notizie sull'impeachment, vuoi non vuoi, insomma è una notizia che probabilmente una delle poche che entrerà nei libri di storia, per cui, anche se l'abbiamo già detto tante volte, poi alla fine di tutto questo chissà cosa resterà, poco probabilmente, però è giusto raccontarla questa storia. Sì, diciamo che le prime pagine dei giornali americani si dividono un po' tra le foto scattate ieri in Senato, Wall Street Journal fa questa scelta, USA Today fa questa scelta, e quelle invece che mettono in prima pagina la foto di Donald Trump con Netanyahu ieri alla Casa Bianca. Quindi da una parte appunto la conferenza su questo piano messo a punto in 3 anni dal marito di Ivanka Trump, il genero Kushner, e dall'altra le audizioni di ieri, ultime audizioni degli avvocati della difesa. USA Today titola: il team di Trump dice che giustizia vuole che sia immediatamente assolto e che non si vada alla convocazione dei testimoni. Vedremo. Da oggi e domani tutti i senatori avranno la possibilità, lo spiega bene Wall Street Journal e anche New York Times, di fare domande, qualsiasi tipo di domande agli impeachment managers, che sono 4 e sono tutti del Partito Democratico, e poi forse si voterà appunto sulla convocazione dei testimoni. Naturalmente il convitato di pietra è quel Bolton di cui abbiamo parlato anche ieri, che ha in uscita questo libro che non è ancora nelle librerie, ma molti ne hanno letto le bozze, e sembrerebbe avere esserci delle accuse abbastanza dirette, delle prove della colpevolezza di Donald Trump nell'affare Ucraina. Giulia, ci sono tante notizie oggi sui giornali che ci segnali, dove vuoi andare? Ma guarda, ho visto che appunto i giornali europei invece proprio dell'impeachment parlano pochissimo, invece parlano molto di questo piano per Israele. Sì. Se vuoi abbiamo credo un piccolo audio. Sì. Del proprio dove il genero di Donald Trump spiega questo piano. La cosa che mi ha impressionato è, lui è naturalmente di religione ebraica, di fede ebraica, la cosa che mi ha impressionato è la durezza con la quale parla dei palestinesi. Dice: i palestinesi, la storia dei palestinesi ci insegna che hanno mandato all'aria qualsiasi tipo di possibilità per la pacificazione. Questa è la loro occasione, speriamo che la prendano. Vabbè, sentiamolo. What you've seen today is that President Trump's built a lot of trust with the state of Israel. He's done a lot of great things that dice quello che avete visto oggi. Trump è il consolidamento di questo rapporto di preferenziale con Israele, e poi ha dato questa possibilità. Naturalmente ci sono in ballo, ricordiamolo, questi 50 miliardi sì. di aiuti. Certo, secondo però, Kushner sì. farebbero la differenza tra la Palestina di oggi. Possono ingolosire i palestinesi. Non mi sembra che fino ad ora ci no. siano riuscito. Certo che se ti poni come mediatore e in qualche modo critichi, o anche semplicemente sappiamo che le parole contano tanto in queste situazioni, una delle due parti, come mediatore non è che ti rinforzi molto come ruolo, però insomma guarda, forse il titolo migliore secondo me l'ha fatto Le Figaro, che riassume la vicenda con Trump propone a Israele, perché di fatto ha fatto questo, non l'ha proposta ai palestinesi, un piano di pace su misura. E Le Figaro, che è un giornale conservatore, sicuramente non ostile né a Trump né a Netanyahu, nota questo, che sembra appunto una cosa costruita su misura per gli israeliani e non tanto per i palestinesi. Se vuoi, visto che ogni tanto i britannici giocano un po' con le parole, amano molto il famoso British sense of humor, sulla vicenda Huawei di cui abbiamo parlato ieri, sapevamo che Boris Johnson avrebbe dovuto dire sì no a Huawei per i componenti della rete 5G, ha detto di sì e quindi Metro titola "I'll meet you half Huawei". Se fosse stato "I'll meet you halfway" vorrebbe dire "ci incontriamo a metà strada", invece "I'll meet you half Huawei", perché di fatto insomma lui la strada a Huawei l'ha aperta, poi con tutti i corollari, ma è talmente misterioso il mondo della cyber security che Boris Johnson ha un bel dire: non preoccupatevi, gli faremo avere accesso solo ad alcune parti del network. Il dubbio che comunque Huawei abbia come dei cavalli di Troia per entrare nel grande network 5G del Regno Unito e quindi potenzialmente anche di altri paesi è quello che spingeva gli americani a dire a Johnson digli di no, ma lui ha detto di sì. Ecco, e questo abbiamo sottolineato è un piccolo motivo di dispiacere in questa amicizia tra Johnson e Trump, che invece è sempre stata un'amicizia abbastanza solida. Tra le cose che mi segnali, sarà un quotidiano progressista il País, però è interessante che dedichi una pagina a chi? A una donna che ha sconfitto, secondo loro, Salvini. In effetti è la consigliera più votata dell'Emilia Romagna. Sì, 22.000 e passa preferenze. Sulla prima pagina di El País, Elly Schlein, la estrella, la stella della izquierda, della sinistra, anche se sappiamo che lei dal PD è uscita ed è uscita anche in forte polemica e alle elezioni dell'Emilia Romagna, questo naturalmente El País lo spiega, si è presentata con una nuova lista, un nuovo partito, e dice appunto che ha sconfitto Salvini. Interessante anche l'analisi di Le Monde, che cerca di spiegare ai suoi lettori che l'Emilia Romagna non è l'Italia e quindi dopo che ieri ha messo in prima pagina non appunto c'è Salvini, conseguenza, esatto, tra quel voto e il resto del paese. Se vuoi, c'è qualcosa anche su Federer? Oh sì, perché sapete che Federer ha giocato due quarti di finale, un quarto di finale, un ottavo di finale belli tosti, e il Daily Telegraph e molti altri giornali australiani, tratto a giudicare dalle prime pagine, gli incendi sono spenti, non è così, ma vabbè, pazienza, quindi questo un po' mi consola, dai, non ne parliamo più noi, anche ma loro un po' col tennis, perché sennò poveracci, esatto, questi incendi non possono più. Quindi da una parte naturalmente il virus, perché come abbiamo detto più volte l'Australia ha molta paura del contagio, soprattutto dei viaggi per il capodanno cinese di tutti gli studenti che sono in Cina, che sono in Australia dalla Cina o viceversa, e quindi back from the Fed, quindi di ritorno Federer, il grande ritorno di Federer, perché insomma è stato un bel comeback. Ma poi soprattutto viene sottolineato che per la prima volta forse che si ricordi Federer ha perso un po' la calma, è stato ripreso dall'arbitro e a un certo punto ha detto, questo arbitro che tra l'altro è una donna molto carina, anche questo naturalmente i giornali non potevano non sottolinearlo, ha detto "give me a break", cioè che sta per "vi prego siate clementi almeno per una volta, se non sono perfetto e mi scappa la bestemmia". Vabbè, comunque poi ha vinto al quinto set contro un avversario 10 anni più giovane di lui, quindi insomma sempre onore a Federer. Giulia, bene, abbiamo finito anche per oggi con la segna internazionale, tutto per la puntata di oggi, noi ci risentiamo naturalmente domani con Effetto Giorno. Da Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata, con Jacopo De Franchi in redazione, Andrea Roccabella in regia, ci risentiamo tra poco con l'aggiornamento delle 14:00.